il cerimoniale del rito d'adorazione. È necessario fare una premessa, cioè spiegare che cosa sia la rak'ah. Il cerimoniale del rito di adorazione è costituito dalla ripetizione di una successione di posizioni e gesti accompagnati da recitazioni. La successione delle posizioni e dei movimenti che si ripetono si chiama rak'ah. Essa costituisce l'unità elementare dell'adorazione, in quanto ogni rito di adorazione è costituito da un numero determinato di unità elementari dell'adorazione, cioè di rak'ah. E precisamente, il rito d'adorazione dell'alba è costituito da due rak'ah, rak'atan o rak'atain. Quello del tramonto è costituito da tre rak'at. Quelli del mezzogiorno, del pomeriggio e della notte sono costituiti da quattro rak'at. Ciò premesso, passiamo alla descrizione del cerimoniale dell'adorazione. E chiameremo colui che sta per eseguire e che esegue il rito dell'adorazione musalli, cioè colui che esegue, che sta eseguendo il rito dell'adorazione. Quando si trova nelle condizioni richieste dal sublime Corano e dalla nobile Sunna per eseguire validamente il rito di adorazione, il musalli deve mettersi rivolto nella direzione della Mecca, al Qibla, in posizione eretta o, ginnasticamente parlando, in prima posizione, poggiando il corpo su ambedue i piedi e tenendo le braccia lungo i fianchi. Questa posizione si chiama Qiyam. Nella posizione di Qiyam, il musalli recita mentalmente o a bassa voce la basmala, cioè dice Bismillahirrahmanirrahim, e successivamente formula l'intenzione di eseguire il rito dell'adorazione del tempo in cui si trova. All'alba dirà Anui salat al-fajri lillahi ta'ala. Intendo eseguire il rito di adorazione dell'alba per Allah l'Altissimo. A mezzogiorno, Anui salat al-dhuhri lillahi ta'ala. Intendo eseguire il rito dell'adorazione del mezzogiorno per amore di Allah l'Altissimo. Nel pomeriggio, Anui salat al-asri lillahi ta'ala. Intendo eseguire il rito d'adorazione del pomeriggio in obbedienza e per amore di Allah l'Altissimo. Al tramonto, Anui salat al-maghribi lillahi ta'ala. Intendo eseguire il rito d'adorazione del tramonto in obbedienza e per amore di Allah l'Altissimo. Al calar delle tenebre, Anui salat al-isha lillahi ta'ala. Intendo eseguire il rito dell'adorazione della notte in obbedienza e per amore di Allah l'Altissimo. Con la formulazione dell'intenzione hanno termine i preliminari del rito di adorazione.